Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla Rassegna Stampa Europea. Come immaginerete, l'argomento principale di molti articoli di tantissimi quotidiani europei di questa settimana sono state le elezioni greche. Noi ne abbiamo parlato per tanto tempo, sapevamo che Syriza avrebbe vinto, lo dicevano i sondaggi, lo diceva anche il buon senso, lo dicevano gli economisti, lo dicevano gli analisti politici, è successo. Quello che magari era un po' meno prevedibile era poi come si sarebbe formato il governo e quanto velocemente. E allora iniziamo magari dai quotidiani greci che il giorno successivo, quindi lunedì scorso e poi naturalmente in quelli nei giorni ancora dopo, ma per ora insomma i commenti più significativi, perché dettati un po' anche dalla sorpresa, sono stati quelli di lunedì. E per esempio cominciamo da Tanea, che è un quotidiano greco appunto, che ha scritto Syriza 36,3%, questo la percentuale più alta in realtà del previsto andata al partito di Alexis Tsipras, la Grecia volta pagina. Quindi 1732 giorni, ricorda Tanea, dopo l'adozione del piano di salvataggio finanziario del paese, la sinistra arriva al potere. E in un editoriale pubblicato appunto da questo quotidiano, il giornale ha scritto che questo è il primo voto del no alle politiche dei memorandum europei e del Fondo Monetario Internazionale, il primo sì alle alternative che si spera non porteranno il popolo alla miseria o comunque non interromperanno quello che sicuramente è un ciclo che possiamo e dobbiamo chiamare miseria, perché abbiamo visto tutti in che stato per esempio sono i bambini più delle famiglie più povere, delle fasce della popolazione più povera, non hanno assistenza sanitaria, sono malnutriti, quindi purtroppo la parola miseria non è così fuori luogo. Perica Timerini, che è un altro quotidiano greco di cui forse ricorderete la settimana scorsa avevamo citato un editoriale, Perica Timerini appunto si apre questo nuovo scenario politico e è stato necessario per il quotidiano greco ma anche per tanti altri ricordare un po' a tutti quali sono i tre pilastri del programma di Tsipras, che per ora sembra restare tale, anche se poi nella coalizione che ha subito voluto formare sono entrati anche partiti molto lontani da Syriza, che ricordiamo significa partito della sinistra radicale. Quindi questi tre pilastri sono cancellazione del memorandum, il memorandum famoso della Troica, ristrutturazione del debito e poi riforme, perché Alexis Tsipras, pur avendo sempre sottolineato che la soluzione proposta dalla Troica era sbagliata per la Grecia, ha anche sempre detto che per la Grecia, come per tanti altri paesi, Italia compresa naturalmente, le riforme sono necessarie. Secondo i Catimerini, la forza di Tsipras è stata che, nonostante appunto appartenga a un partito non estremista, però che ha nel suo nome la parola radicale, è apparso come un unificatore, riferendosi alla vittoria di tutti i greci, e ha poi subito ribadito che la priorità è placare tutti questi strappi che sono stati provocati nella società greca dalla crisi. Infine vi cito Efimerida, un altro quotidiano greco, e ricordo che anche questa volta questi articoli ve li posso citare, ve li posso raccontare grazie al lavoro di presseurope.eu, che è questo sito che traduce da tante lingue che sono sicuramente poco diffuse. Io sicuramente il greco, purtroppo il greco moderno, in realtà neanche quello antico, non lo so. E allora scrive Efimerida: vittoria pesante come la storia, il destino del paese nelle mani della sinistra. Per il quotidiano questa vittoria politica è importante però per tutta l'Europa. In un periodo in cui l'integrazione europea è minacciata dall'estrema destra, come vedremo ci sono degli sviluppi anche, aggiungo io, per quel partito di cui abbiamo parlato, quel movimento di cui abbiamo parlato che è Pegida in Germania, ecco allora scrive Efimerida, in questo periodo in cui l'integrazione è minacciata dall'estrema destra e dalle forze dell'euroscetticismo, sappiamo per esempio quanto siano presenti nel Regno Unito, gli elettori greci hanno lanciato un potente messaggio contro i piani di salvataggio. I due partiti della coalizione uscente, cioè Nuova Democrazia e lo storico partito del centrodestra PASOK, sono stati puniti per la loro politica. Ma vediamo anche le reazioni dei tedeschi, perché sono forse quelli che sono rimasti un po' più scioccati dalla vittoria, perché se c'erano alcuni partiti, alcuni paesi anche in un certo senso come l'Italia che tifavano per una vittoria di Syriza e di Tsipras, e per le posizioni di Tsipras ce n'erano altri come la Germania che invece temevano e tifavano contro una vittoria di Tsipras, sulla scia naturalmente delle posizioni molto dure della cancelliera Merkel e del suo ministro dell'economia e di quello delle finanze. E allora dubbi e interrogativi sostanzialmente sulla stampa tedesca. Allora la Bild, che ricordiamo è il quotidiano in assoluto più diffuso in Europa, la diffusione della Bild è di circa 6 milioni di copie, però è anche un tabloid, cioè un quotidiano che tende a essere scandalistico, e allora titolava: che cosa significa la scelta dei greci per i nostri soldi? E così riconosceva che Syriza ha conquistato una vittoria storica, però ha anche sottolineato che non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Aggiungiamo noi che, per quanto ottimistiche fossero le previsioni di una vittoria di larga misura di Syriza, nessuno aveva mai sperato, nemmeno Tsipras, in una maggioranza assoluta, cioè oltre il 50%, è arrivato al 36, che era comunque più alto dei sondaggi previsti fino a poche settimane prima. Lo stesso punto interrogativo, diciamo, lo mette la Faz, che invece sappiamo è un quotidiano, la Frankfurt Allgemeine Zeitung, molto diverso dalla Bild, meno diffuso ma anche, diciamo, più autorevole. Che farà Tsipras dopo la vittoria elettorale trionfale del populista di sinistra, così lo definisce la Faz, che naturalmente invece è un giornale conservatore. Molti ateniesi si sono mostrati in occasione delle celebrazioni per la vittoria, convinti che ora, dopo molte difficoltà, potrebbe iniziare una nuova vita. Infine la Welt, che ha una posizione un pochino più meno estrema di quella della Bild e della Faz, tratteggia quattro scenari per il dopo elezioni: un fallimento di Tsipras, una specie, in tedesco c'è una parola bellissima che è Schadenfreude, cioè essere felici per le disgrazie altrui. Ecco, c'è tra le righe, questo ve lo posso dire perché il tedesco lo conosco e l'articolo l'ho letto, c'era un po' tra le righe come se ci fosse appunto la speranza che poi Tsipras fallisse, che sarebbe quindi costretto a lasciare nel giro di 6 mesi, nel qual caso bisognerebbe andare a nuove elezioni. Però la Welt ammetteva: no, le possibilità di questo scenario sono molto scarse. Poi c'è la possibilità del compromesso, che tra l'altro abbiamo visto nei giorni scorsi si sta delineando, quindi un accordo con Bruxelles, quello che la Welt chiama un ritorno alla ragione di Tsipras, un fallimento della Grecia con permanenza nell'euro, e infine il Grexit, cioè l'ipotesi di un'uscita della Grecia dall'euro, che però la stessa Welt dice altamente improbabile. Del resto anche Angela Merkel si è affrettata subito prima delle elezioni, quando era diventata chiarissima la vittoria di Tsipras, subito dopo le elezioni lei ha sempre detto, cercando anche di mitigare un po' le posizioni dei falchi, che sono appunto il suo ministro dell'economia e quello delle finanze, che nessuno auspica questa Grexit, questa uscita della Grecia dall'euro. Citiamo anche il New York Times per vedere uno sguardo un po' fuori dall'Europa. E in un editoriale il quotidiano americano diceva che l'Europa deve ascoltare quello che viene definito il grido di agonia della Grecia. Il messaggio delle elezioni è stato chiaro: i greci non possono e non continueranno a rispettare un regime di austerity che ha messo in ginocchio il loro paese. È un messaggio, scrive il New York Times, che la Germania, appunto, e gli altri paesi che insistono per il pagamento del debito devono ascoltare. Ecco, allora vediamo che in realtà c'è chi si è poi affrettato a ribadire che il debito va pagato, per esempio Christine Lagarde, che è il presidente del Fondo Monetario Internazionale, che è uno dei tre membri della Troica, e che ha subito rilasciato un'intervista a Le Monde dicendo che le regole della zona euro sono uguali per tutti e non ci sono distinzioni. Questa è la dichiarazione a caldo, poi secondo me vedremo che una soluzione di compromesso, per l'appunto, bisognerà trovarla. Cambiamo un attimo argomento, le ultime due segnalazioni che riesco a farvi. Una ancora sul quantitative easing, che è stato deciso la settimana scorsa da Mario Draghi, che possiamo semplificare dicendo immissione di liquidità nella zona euro. La Börsenzeitung, che è un quotidiano finanziario tedesco, ha raccolto le dichiarazioni di Andreas Tombret della Bundesbank, la banca centrale tedesca, che lo sappiamo del resto, queste non sono novità, insomma, all'indomani del quantitative easing già molti economisti tedeschi e membri della Bundesbank si erano detti contrari a questa mossa di Draghi, e Andreas Tombret ribadisce: con questo quantitative easing deciso da Draghi aumenta il pericolo di una bolla su alcuni mercati. Una lunga fase di bassi tassi rappresenta senza dubbio una grossa sfida per le banche, ma anche per gli assicuratori. Insomma, noi invece tifiamo perché il quantitative easing funzioni e dia la scossa all'economia europea che che abbiamo, di cui abbiamo bisogno. Un'ultimissima segnalazione da Den sulla vicenda dell'Ucraina. Den, che è un quotidiano di Kiev, quindi la capitale dell'Ucraina, ha parlato naturalmente dei nuovi, di questa recrudescenza di scontri, della guerra civile che di fatto non si è placata in Ucraina, e auspica Den che i ministri dell'Unione Europea, ministri degli esteri dell'Unione Europea, rinnovino le sanzioni alla Russia per cercare di avere quell'applicazione degli accordi di Minsk siglati mesi fa, che in realtà non c'è stata, perché appunto i ribelli filorussi continuano a rinfocolare la guerra civile in Ucraina. Era l'ultima segnalazione. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.